Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Emma, ho qualche notizia per lei, disse il signor Knightley. Chiede sempre notizie e io lungo la strada ho sentito qualcosa che penso la interessi. Notizie? Oh sì, mi piacciono sempre le notizie. Di che cosa si tratta? Perché quel risolino? Dove l'ha sentita, a Randalls? Egli ebbe solo il tempo di dire: «No, non a Randalls, non sono stato dalle parti di Randalls», che la porta si spalancò e Miss Bates e Miss Fairfax entrarono. Piena di ringraziamenti e piena di notizie, Miss Bates non sapeva quali elargire prima, e Mr. Knightley non tardò a capire che aveva perso il turno e non gli restava sillaba da pronunciare. «Oh, come sta, caro signore, stamattina?» «Mia cara signorina Woodhouse, sono davvero commossa. Un così bel quarto di maiale, troppo generosi. Ma ha sentito la notizia? Il reverendo Elton si sposa!» Emma non aveva più avuto tempo di pensare al reverendo Elton, e tale fu la sua sorpresa che a quel nome non poté evitare un piccolo sussulto e un lieve rossore. «Era questa la mia notizia e pensavo le interessasse», disse il signor Knightley con un sorriso di maliziosa allusione a quanto era avvenuto fra loro nei giorni precedenti. «Ma dove ha potuto saperlo lei?» esclamò Miss Bates. «Dov'è mai possibile che l'abbia sentito, signor Knightley?» «Ero per affari da Mr. Cole un'ora e mezzo fa. Aveva appena finito di leggere la lettera di Elton quando mi fece entrare e me la passò subito.» «Ah, beh, questo è proprio... Immagino non ci sia stata mai notizia di interesse più generale. Mio caro signore, lei è davvero troppo buono. E la mamma la prega di accettare i migliori saluti e auguri e mille ringraziamenti. E dice che davvero fa troppo per lei.» «Noi consideriamo il maiale di Hartfield», rispose il signor Woodhouse, «tanto superiore a tutti gli altri, come certamente è, che per Emma e me non può esservi maggior piacere.» «Oh, mio caro signore, come dice mia madre, i nostri amici sono fin troppo buoni con noi. Se mai ci furono persone che, senza essere molto ricche, hanno avuto qualunque cosa potessero desiderare, siamo certamente noi. Possiamo ben dire che un destino felice ci ha arriso.» «Ah, ma signor Knightley, e così lei ha visto personalmente la lettera?» «Poche righe, solo per annunciare, ma allegre, inutile dirlo, anzi esultanti.» E qui uno sguardo furtivo ad Emma. «Era stato così fortunato da... non ricordo le parole esatte, a che serve ricordarle? L'informazione comunque era proprio come lei diceva. Sposa una Miss Hawkins. Dallo stile direi che è già tutto combinato.» «Il reverendo Elton si sposa?» disse Emma appena poté parlare. «Avrà tutti i nostri auguri.» «È molto giovane per accasarsi», fu l'osservazione di Mr. Woodhouse. «Avrebbe fatto meglio a non precipitare le cose. A me sembrava che se la passasse a meraviglia così come stava. Eravamo sempre lieti di vederlo ad Hartfield.» «Una nuova vicina per tutti, Miss Woodhouse!» esclamò festosamente la signorina Bates. «La mamma ne è così contenta! Dice che la povera vecchia canonica senza una padrona non le andava proprio giù. Una gran notizia davvero! Tu, Jane, non hai mai visto il reverendo Elton e non mi stupisco che sia tanto curiosa di conoscerlo.» La curiosità di Jane non parve di natura così assorbente da occuparla tutta. «No, non ho mai visto il reverendo Elton», rispose sussultando. «È alto?» «Chi può dirlo?» esclamò Emma. «Mio padre risponderebbe di sì, il signor Knightley di no, Miss Bates e io, che è proprio il giusto mezzo. Quando avrà passato qui un po' più di tempo, Miss Fairfax, capirà che ad Highbury il reverendo Elton è il modello della perfezione sia nel fisico che nel morale. Verissimo, signorina Woodhouse, proprio così. Un giovane come non ce n'è altri. Ma, cara Jane, se ricordi, ieri ti ho detto che aveva esattamente la statura del dottor Perry. Miss Hawkins, un'eccellente ragazza, immagino. Quanto a chi e che cosa sia Miss Hawkins, o al tempo che si conoscono, immagino non se ne possa saper nulla. La mia impressione è che non si tratti di vecchia conoscenza. Sono appena 4 settimane che è via, disse Emma. Nessuno aveva informazioni da dare e dopo aver rimuginato qualcos'altro, Emma disse: «Lei non parla, Miss Fairfax, ma spero che la notizia le interessi. A lei che in materia ha sentito e visto tante cose negli ultimi tempi e che deve avere avuto le mani tanto in pasta nella faccenda di Miss Campbell, a lei non perdoneremmo di rimanere indifferente nel caso del reverendo Elton e di Miss Hawkins». «Quando avrò conosciuto il reverendo Elton», rispose Jane, «immagino che mi interesserà, ma credo che per me ci voglia questo. E poiché è ormai qualche mese che Miss Campbell si è sposata, è possibile che l'impressione sia un po' svanita». Emma, rimasta sola col padre, dovette prestargli metà della sua attenzione, mentre deplorava che i giovani avessero tanta fretta di sposarsi e di sposarsi fuori paese per giunta, e l'altra metà poté dedicarla alle proprie riflessioni sull'argomento. Era per lei una notizia divertente quanto mai gradita, a riprova che il reverendo Elton non poteva aver sofferto a lungo. Ma le spiaceva per Harriet. Harriet se ne sarebbe risentita e tutto quel che poteva sperare era di evitarle di riceverla a bruciapelo da altri, portandogliela a lei stessa per la prima. Era su per giù l'ora in cui si sarebbe probabilmente fatta vedere, e Miss Bates sul suo cammino. Poiché sarà messo a piovere, Emma doveva aspettarsi che il tempo la trattenesse in casa Goddard e che la notizia le piombasse addosso senza preparazione. L'acquazzone fu violento ma breve. E non erano passati 5 minuti che entrò Harriet, proprio con l'aria eccitata e sconvolta che si poteva attendere da chi avesse fatto la strada di corsa, e col cuore gonfio. «E lo, Miss Woodhouse, pensi un po' che cosa è successo?» Subito esploso, presentava tutti i segni di una corrispondente eccitazione. Poiché il colpo era ormai inferto, Emma sentì di non potersi mostrare più gentile che ascoltando. E Harriet, non trovando freno, si lanciò a perdifiato in tutto quanto aveva da raccontare. Era uscita da casa Goddard 30 minuti prima. Temeva che piovesse, temeva che da un momento all'altro la pioggia venisse giù a catinelle, ma contava di arrivar prima ad Hartfield e aveva allungato il passo. Ma poi, capitata davanti alla casa di una ragazza che le stava facendo un vestito, aveva pensato di farci una capatina per vedere a che punto stava. E per quanto non le sembrasse di fermarsi 30 minuti, subito dopo che era uscita cominciò a piovere e, non sapendo che cosa combinare, s'era messa a correre più presto che poteva e aveva cercato riparo da Ford. Ford era il più importante negozio di laneria, biancheria e merceria tutti insieme, il primo del posto per grandezza e moda. E qui era rimasta seduta senza pensare a nulla 10 minuti buoni, finché tutto un tratto, chi si vede? Era proprio strano, ma loro si rifornivano sempre da Ford. Chi si vede dunque se non Elizabeth Martin e suo fratello? Pensi un po', cara signorina Woodhouse. Credevo di svenire, non sapevo che fare. Ero seduta accanto alla porta. Elizabeth mi vide subito, ma lui no. Era tutto indaffarato con l'ombrello. Che mi abbia vista però ne sono certa, ma si voltò dall'altra parte, fece finta di non vedermi e insieme si rifugiarono all'altra estremità del negozio e io sono rimasta seduta accanto alla porta. Oh, povera me, ero così sperduta. Devo essere stata bianca come il mio vestito. Andarmene non potevo, capisce, per via della pioggia, ma in qualunque altro posto al mondo avrei voluto essere piuttosto che lì. Oh, cara Miss Woodhouse, Beh, finalmente lui si è guardato attorno, immagino, e m'ha vista, perché invece di continuare negli acquisti si sono messi a bisbigliare tra di loro. Parlavano di me, certo, e non ho potuto fare a meno di pensare che stava convincendola a parlarmi. Pensa che sia così, Miss Woodhouse? Perché d'un tratto lei si è fatta avanti, mi è venuta incontro e mi ha chiesto come stavo, e sembrava pronta a darmi la mano se volevo. Non ha fatto né l'una né l'altra cosa nel modo che era solita. Vedevo bene che era cambiata, ma cercava, m'è parso, di mostrarsi molto affabile. E ci siamo strette la mano e per un po' siamo rimaste in piedi a chiacchierare. Ma che cosa abbia detto non lo so più. Tremavo tutta. Ricordo di averle sentito dire che le spiaceva che non ci fossimo più visti, cosa che mi parve fin troppo gentile. Cara signorina Woodhouse, ero proprio fuori di me. Frattanto cominciava a schiarirsi ed ero ben decisa a non lasciarmi trattenere da nulla. Quando ecco, pensi un po', mi sono accorta che anche lui si avvicinava, lentamente, sa, e come se non sapesse bene che fare. È venuto, si è messo a parlare e gli ho risposto. Per un minuto rimango lì scombussolata, non so dirle come. Poi mi faccio coraggio e dico che non pioveva e che dovevo andare, e me ne sono andata. Non avevo fatto 3 metri dalla porta che lui mi raggiunge, solo per dirmi che se andavo ad Hartfield, credeva mi convenisse fare il giro dalle stalle di Mr. Cole, perché avrei trovato la strada diretta inondata da tutta quella pioggia. Oh, povera me, credevo di morire. Così dico che gli sono molto obbligata. Di meno non potevo fare, le sembra? E lui torna da Elizabeth e io faccio il giro delle stalle. Sì, credo di averlo fatto. Ma non sapevo più dov'ero, non sapevo più nulla. Oh, Miss Woodhouse, avrei fatto qualunque cosa perché non succedesse, eppure, a vederlo comportarsi con tanta cortesia e amabilità, c'era, creda, una specie di soddisfazione. Oh, signorina Woodhouse, mi parli e faccia in modo che riabbia pace. Emma dovette trattenersi a ragionare. Non si sentiva affatto in pace lei stessa. Il contegno del giovane e della sorella sembravano l'espressione di un sentimento reale e non poteva che compiangerli. Stando al racconto di Harriet, c'era stato nel loro modo d'agire una commovente mescolanza di affetto ferito e di sincera delicatezza. Ma che fossero persone degne e d'animo gentile l'aveva pensato sempre. E che cosa cambiava tutto ciò negli aspetti negativi del matrimonio? Era da sciocchi lasciarsene frastornare. Certo, perderla doveva spiacergli, doveva spiacere a tutti loro. Probabilmente, insieme all'amore, era stata mortificata l'ambizione. Forse avevano tutti sperato di salir di grado mercé la conoscenza di Harriet. E poi, che cosa valeva la discrezione di Harriet? Così facile da accontentare, così ingenua. Che significato aveva il suo elogio? Si fece forza e cercò di calmarla considerando l'accaduto una cosa da nulla, indegna di perderci sopra la testa. «Può darsi che lì per lì sia stato imbarazzante», disse, «ma mi sembra che si sia comportata come meglio non poteva. Ed è passata, e non può capitare più. Anzi, come primo incontro non può più capitare di certo». E non è quindi il caso di pensarci. Harriet disse, «Proprio vero, non ci penserò». Ma continuava a parlare, non riusciva a parlare d'altro. Ed Emma, per cacciarle di testa i Martin, finì per doversi buttare sulla notizia, che aveva avuto in mente di darle con tanto più dolce cautela, non sapendo neppure lei se rallegrarsi o stizzirsi, vergognarsi o soltanto divertirsi dello stato d'animo della povera Harriet, di una tal conclusione dell'importanza che aveva per lei il reverendo Elton. Tuttavia, a poco, i diritti del reverendo Elton si riaffermarono. Pur non reagendo alla prima notizia come avrebbero potuto fare un giorno o un'ora avanti, a poco il suo interesse aumentò. e la loro prima conversazione non era ancora finita, che aveva espresso tutte le sensazioni di curiosità, stupore e rammarico, dolore e piacere a proposito di questa fortunata signorina Hawkins, che potevano condurre a mettere in secondo piano nella sua fantasia, come di dovere, la famiglia Martin. Tutto sommato, Emma fu abbastanza contenta che quell'incontro si fosse verificato. Aveva contribuito ad attutire il primo colpo senza conservare influssi allarmanti. Come Harriet viveva ora, i Martin non potevano raggiungerla senza cercare là dove non avevano né il coraggio né la condiscendenza di farlo, giacché dopo il no detto al fratello, le sorelle non erano mai state dalla signora Goddard e poteva passare un anno senza che le loro strade si incontrassero ancora, con la necessità o addirittura la possibilità di parlarsi. La natura umana è così ben disposta verso chi si trova in situazioni patetiche, che di un giovane il quale si sposi o muoia si può star certi che si parlerà sempre bene. Non era passata una settimana dal giorno che per la prima volta il nome di Miss Hawkins era stato fatto ad Highbury e già si era scoperto, per questa o quella via, che ella possedeva tutte le qualità fisiche e morali atte a raccomandarla: bellezza, eleganza, modi estremamente compiti, amabilità perfetta. E quando il reverendo Elton in persona arrivò a pavoneggiarsi nelle sue felici prospettive e a far circolare la voce dei meriti di lei, gli rimase poco più che dirne il nome di battesimo e la musica che preferiva suonare. Il reverendo Elton tornò che era al settimo cielo. Se n'era partito respinto e umiliato, deluso nelle più rosee speranze, dopo una serie di quelli che gli erano sembrati forti incoraggiamenti, non solo perdendo la donna giusta, ma trovandosi ridotto alla più sbagliata. Se ne era partito profondamente offeso. Tornava fidanzato. E fidanzato ad un'altra donna, superiore naturalmente alla prima di quel tanto che in circostanze simili ciò che si guadagna è sempre superiore a ciò che si perde. Tornava gaio e soddisfatto di sé, tutto animato e in gran faccende, non curandosi affatto della signorina Woodhouse e sfidando la signorina Smith. Oltre a tutti i soliti vantaggi di una perfetta bellezza e di ottime doti naturali, l'affascinante Augusta Hawkins possedeva una fortuna personale di migliaia di sterline, di cui si sarebbe sempre detto che erano 10, punto questo di una certa dignità e insieme di una certa convenienza. La storia parlava chiaro. Non si era buttato via. Aveva guadagnato una donna da 10.000 sterline o giù di lì, e con incantevole rapidità. Alla prima ora di presentazione erano subito seguiti evidenti segni di favore. Così gloriosa era la storia che aveva da narrare a Mrs. Cole sull'origine e sugli sviluppi della faccenda, così veloce il passo dal casuale incontro al pranzo da Mr. Green alla serata da Mrs. Brown, sorrisi e rossori via via più evidenti, e consapevolezza e agitazione seminate a piene mani. La signorina era apparsa così facilmente impressionata e così dolcemente disposta. Insomma, per usare una frase accessibile a tutti, era stata così pronta ad afferrarlo che vanità e prudenza erano del pari soddisfatte. Si era impadronito a un tempo di sostanza e ombra, di quattrini e affetto, ed era proprio l'uomo felice che era logico attendersi, l'uomo che non parla d'altro che di sé e dei suoi affari, attende le congratulazioni altrui, si lascia tranquillamente ridere dietro e si rivolge con sorrisi cordiali ed imperterriti a tutte le signorine del luogo verso le quali poche settimane prima avrebbe usato una galanteria molto più cauta. Le nozze non erano un evento lontano, giacché le due parti non avevano da render conto che a se stesse e da occuparsi d'altro che dei preparativi indispensabili. E quando egli ripartì per Bath, l'attesa era generale, né una certa occhiata della signora Cole sembrava contraddirla, che, tornando ad Highbury, portasse con sé la sposa. Durante quel breve soggiorno, Emma l'aveva appena visto, quanto bastava, tuttavia, per sentire che il primo incontro era superato, e aver l'impressione che il misto di orgoglio ferito e presunzione di cui la sua aria era tutta spruzzata non lo migliorasse punto. In realtà cominciava a farsi meraviglia di averlo mai ritenuto simpatico. E la sua vista era legata in modo così indissolubile a sensazioni ultra sgradevoli che, se non da un punto di vista morale, come penitenza, lezione, fonte di utile umiliazione dello spirito, avrebbe accolto con gratitudine l'assicurazione che non l'avrebbe mai più riveduto. Non che non gli augurasse ogni bene, ma le causava dolore e saperlo contento e pacifico a 20 miglia di distanza le avrebbe recato la massima gioia. Tuttavia, la sofferenza del suo duraturo soggiorno ad Highbury sarebbe stata certo attenuata dal matrimonio, che avrebbe prevenuto vane sollecitudini e appianato situazioni imbarazzanti. Una signora Elton sarebbe stata buona scusa per introdurre un cambiamento nei loro rapporti. L'intimità di un tempo poteva svanire senza darne l'occhio. Sarebbe stato un po' come riprendere la vita di cortesia formale che era stata la loro. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.